música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi mi racconterete il vostro sogno ricorrente. Sogno ricorrente non significa il vostro progetto di vita, quello che vorreste fare, proprio il sogno, quello che si fa la mattina stropicciandosi gli occhi, quando l'albeggiare comincia ad apparire alla finestra, quando si sentono i primi autobus, i primi tram che accendono la città che si sta svegliando, quando ci si rigira nel letto soli o in compagnia. Comunque si sogna sempre da soli, perché se non siamo soli non abbiamo bisogno di sognare, il sogno già consiste, o l'incubo, nel stare accanto a un'altra persona. Beh, in quei momenti particolari noi entriamo in quella zona parallela che è la dimensione del sogno, che è una sorta di sfumata lenta tra la dimensione del sogno, che non abbiamo mai percezione, e poi quando siamo dall'altra parte, è quale sia il mondo, quello che stiamo vivendo nel momento in cui stiamo sognando, che abbiamo l'idea o l'impressione di gestire e di guidare il nostro sogno, o il momento della lento ritorno alla realtà, in cui ancora il sogno aleggia intorno a noi, ancora ci sembra di poterlo riaccappare per i piedi, vorremmo averne un pezzettino ancora, perché i sogni del mattino sono sempre quelli più piacevoli, sono quelli che concretizzano, ammesso che possa essere usata la parola concretizzare per qualcosa che attiene la dimensione del sogno, comunque quello che noi vorremmo, quello che vorremmo immaginare, una persona che vorremmo accanto in quel momento, una persona che sogniamo, una persona che immaginiamo, che alluciniamo, che in quel momento ci sembra di poterla richiamare per una sorta di sortileggio accanto a noi, una situazione che abbiamo da poco vissuto, che vorremmo vivere o ci ricordiamo di aver vissuto tanto tempo fa, o qualcosa di totalmente assurdo, di totalmente strano alla nostra esperienza di persone sveglie, qualcosa che riaffiora chissà da quale dimensione profonda della nostra coscienza addormentata. E quelli sono i sogni che probabilmente più ci lasciano perplessità, quelli che non riusciamo a comandare, che non riusciamo a indirizzare, quelli che non sono l'esito dei nostri desideri. Sono i sogni che poi ci perseguitano durante la giornata, o perlomeno ci accompagnano, che ci chiedono comunque di approfondire il significato di quella nostra visione, perché non siamo mai perfettamente consapevoli di quale sia la visione, se quella che stiamo in questo momento noi è condividendo, o quella di quel momento fatato che tutti abbiamo. Molti dicono: non sogno da tanto tempo. Beh, sono le persone che vivono in uno stato di pre-morte, e sono già morte. Anche io ho passato lunghi periodi in cui non sognavo. Adesso sogno molto, ma sogno molto perché mi sto imbottendo di medicine, perché praticamente un paio di volte a settimana c'è un signore che mi apre le gengive e me le trapana, mi sega. Anche ieri ho avuto un'esperienza mistica, una soglia del dolore mai toccata, e stanotte ho fatto dei sogni meravigliosi. Infatti proprio per questo, saranno gli antibiotici, gli antidolorifici o non so che. Beh, quanto voi sognate? Cosa sognate? In che maniera sognate? Di cosa vi ricordate dei sogni che avete fatto? Ci sono dei sogni ricorrenti? Io ricordo i miei sogni da fanciullo. Vivevo in una zona che allora era campagna, adesso è diventata periferia. C'era una grande pineta sopra casa mia, anzi un bosco sacro, era bello, una piccola collina con in cima un grosso crocifisso gigantesco. I cacciatori, quando passavano per lì, si fermavano e ci mangiavano un panino sotto. Qualcuno ci provava anche le cartucce contro, ma erano atti di blasfemia comprensibili in quelle contrade e a quelle latitudini, molto segnate, ahimè, da uno spirito laico imperante, ma un senso anche di religiosità, se no non si sparerebbe contro un crocifisso. Beh, io sognavo spesso nella notte che mi alzavo e andavo a piedi lungo questo bosco, e lì c'era una sorta di grande monumento, quasi un tempio. Poi, quando dopo tanti anni venni a Roma, vidi che era il Vittoriano. Io sognai il Vittoriano, qualcosa del genere, un tempio neoclassico, qualcosa di bianco, in cui da piccolo andavo, salivo le scale sempre deserte, passavo per questi colonnati, e era lì, ero convinto che era lì, e lo andavo a cercare, e lo andai a cercare fino a pochi anni fa, quando mi capitò di tornare a casa, andavo a cercare io il grande tempio bianco che sognavo da piccolo. E voi cosa sognate? 800 24 00 24. Stanotte ti ho sognato e sentivo dal TG2 che tu eri morto. Hai fatto la fine bruttissima, eri morto, praticamente annegato, una cosa del genere. Cosa strana, io non ho la TV a casa, sono 5-6 anni che l'ho buttata. Volevo ringraziarti per la splendida notte trascorsa insieme. È stato davvero bello parlare con te. Si è creata un'intimità che non mi aspettavo. Non pensavo sei riuscita a raccontarti così tanto di me. Prima d'ora non sapevo nemmeno che volto avessi. E a dire il vero, non lo so tuttora. Quando mi sono svegliata questa mattina, ho provato una piacevolissima sensazione. E questa non era un sogno. Un bacio, con affetto. Ho sognato l'altra notte che eri al tavolo del poker al Casinò di Venezia con Emilio Fede, Briatore, Francesco Pazienza, Roberto Calvi, Marcinkus. A un certo punto gioca che ti gioca e sei andato in bagno. E lì il mio sogno si è interrotto e volevo sapere cosa che può significare. Non che mi possa inorgoglire, ma queste sono alcune delle telefonate raccolte alla nostra segreteria nel tempo che parlano di persone che mi hanno sognato. Perché mi hanno sognato? Che probabilmente per loro sono una voce ricorrente, sono un elemento costante alla loro giornata e qualcosa che forse rimane nella loro memoria. Certo, è chiaro, sapere di essere al centro di un suggestivo, profondo e pregnante sogno d'amore fa piacere a chiunque. Ma quante volte noi entreremo nei sogni degli altri non lo sappiamo, nessuno ce lo confessa, nessuno ha il coraggio di dircelo. Quante persone che noi conosciamo entrano nei nostri sogni, poi le incontriamo, le vediamo, abbiamo rapporti costanti con loro, sporadici, possono essere colleghi, possono essere persone in cui abbiamo rapporti familiari e possono essere anche i nostri affetti, ma mai raccontiamo poi quanto, in che maniera o in quale profondità una persona ci incontra nei nostri sogni. Quanto avete persone che ricorrentemente entrano nei vostri sogni e cosa vi farebbe provare, sapere che voi siete entrati o entrate con una certa costanza nei sogni di qualcun altro? 800240024. In questo sogno io mi trovavo sul bordo di una piscina, una di queste mega piscine tipo di un grande hotel che di solito non frequento, e guardavo questa piscina che era completamente limpida e a un certo punto al mio fianco appare questo amico che è anche un artista, che mi prende per mano e mi dice di togliermi le scarpe. Io sono completamente vestita, anche lui. Io mi tolgo le scarpe e a quel punto lui dice: ok, tuffiamoci. E anche se è una cosa del tutto assurda, ci tuffiamo nella piscina e ci teniamo mano nella mano. Questa è una nostra ascoltatrice che ieri ha voluto raccontarci il suo sogno ricorrente, per darvelo come esempio, per dirvi qual è il tipo di prestazione che vi chiedo questa mattina. La esigo, mi ha scritto su Facebook una persona poco fa, perché avevo scritto: ognuno racconti il suo sogno, dice, ma è un ordine? Dico sì, è un ordine, come ogni mio desiderio è un ordine, ma non è certo un obbligo eseguire, ognuno è libero di scegliere il proprio esilio emotivo. Una volta che ci siamo tuffati io mi rendo conto che questa piscina in realtà non è una piscina, ma che è l'oceano, che è il mare, perché comincio a vedere dei pesci, comincio a vedere delle alghe, e inizialmente ho una paura incredibile perché non mi piace andare sott'acqua, diciamo, anche se mi piace molto nuotare. Quindi provo a risalire, a riemergere, ma questo mio amico mi trascina verso il basso, dove io non riesco a vedere nulla, cioè vedo tutto, è un abisso, e a un certo punto mi fa segno di guardare la sua bocca e mi indica che si può parlare anche sott'acqua, e quindi cominciamo a parlare, e a quel punto io mi rassereno e cominciamo a scendere sempre più in basso e diventa sempre tutto più buio. Io farò, mentre ascolto i vostri sogni e cerco di istigarvi ad andare sempre più nel profondo, un'operazione che non ha nulla di tecnico, di scientifico, non ha nulla a che fare con interpretazioni psicoanalitiche dei sogni. Evitiamo di entrare nella clinicizzazione anche del sogno. Ho semplicemente un rozzissimo sito aperto davanti, interpretazionedeisogni.org, dove c'è un piccolo form dove uno scrive una parola e ti dice tradotto cosa significa averla sognata. Quindi scriverò in questo caso la parola mare, la digito ora in questo momento, e sentiamo intanto la fine del sogno di Anna. In un momento all'improvviso mi rendo conto che il buio non è buio e che sott'acqua esiste un'altra città, ma non è una sorta di città tipo Atlantide, è proprio una spiaggia, ci sono gli ombrelloni, ci sono i bagnini, ci sono i bambini che si buttano e fanno i tuffi e dagli scogli, però è tutto sott'acqua, quindi diciamo che è una vita invertita però sott'acqua. E quindi tutto ha una sfumatura di luce che non conosco, perché è tutto azzurro. E una volta arrivati su questa spiaggia in fondo all'oceano, ci possiamo togliere i vestiti, come tutti gli altri, e ci mettiamo sotto un ombrellone, però non a prendere il sole, a prendere questa luce azzurra che ci riveste tutti, che ci ricopre. Chissà se Anna aveva già visto Avatar o questo suo sogno ricorrente che la vede sirena sott'acqua, un sogno antico, lontano, forse una sorta di presagio per quello che poi diventerà il sogno collettivo tridimensionale delle creature azzurre. Mi piace pensare che Anna fosse una sirena nella sua dimensione onirica, come a me tante volte, altro emergente mio sogno, ma mi pongo sempre come cavia, come il primo a sperimentare se stesso, a mettere la propria carne e la propria sensibilità a disposizione degli altri e ne facciano ciò che vogliono. Beh, uno dei miei sogni ricorrenti che mi ha seguito fino all'età adulta è quello di essere un centauro. Mi piace galoppare, scalpitare, una sorta di sensazione di invincibilità quando fendevo con i miei zoccoli la foresta. Francesca. Ciao Gianluca. Qual è il tuo sogno ricorrente? Il mare. Ah, mare, digitato mare io in interpretazione. Intanto chiedo scusa perché quando vi ascolto non mi sento la vostra altezza. Sì, adesso non ci perdiamo in queste pippe mentali. Non ho Facebook, sono una pensionata di 66 anni. Vabbè, ancora dai, qualche comunque barlume di vita ce l'hai anche te, non ti piangere addosso. Come? Qualche barlume di vita lucida ce l'avrai ancora anche te, quindi non ti piangere addosso. Penso proprio di sì. Comunque ecco. Il mio sogno ricorrente da anni è il mare. E il mare sotto tutte le sue forme. Per esempio, molti anni fa ero amica di un sacerdote, lui si ammalò e io una mattina ho sognato un mare calmo con una nave che si muoveva dal porto, con questo sacerdote che mi salutava, infatti dopo è venuto a mancare. E poi cioè l'hai proprio benedetto, nel senso. No, vabbè, cosa c'entra? Vabbè che mi porto sfida da sola io, non agli altri. Ma no, il povero prete. No, comunque lui si allontanava in un vascello e la salutava. No, un vascello, su una nave e la stessa cosa. Salutava con un mare molto calmo e dopo due giorni la sorella mi ha chiamato per dirmi che era mancato. E poi sogno sempre il mare in tutte le sue forme. Siccome io amo molto il mare, no? Sogno che voglio arrivare al mare e più delle volte ho degli impedimenti. E non ci riesco e quando sto per arrivarci mi sveglio. Proprio stanotte ho sognato che vedevo il mare dall'alto, non so se ero su un aereo o non lo so, e il mare era come diviso in due, una parte calma e una parte in burrasca. In mezzo c'era un signore con una barba lunga con tanta gente dietro che lo seguivano. Come? C'era un signore con una lunga barba e dietro tutta una folla che lo seguiva in questo mare aperto a metà. No, sarebbe stato un sogno. Mi sembrava di avere vicino mio marito che non c'è più e basta. Va bene, io ti dico soltanto che se sogni il mare, secondo interpretazionesogni.org, significa se il mare è calmo, tranquillità interiore, equilibrio. Il numero consigliato è l'1. Michele. Buongiorno Gianluca. Qual è il tuo sogno ricorrente? Ma io avevo un scusa se non tengo le mani sul tavolo, ma sono un po' intirizzito, sì. No, fai un comodo. Avevo un sogno ricorrente molto strano, che non era poi una serie di eventi, ma era il crepuscolo. Cioè io qualsiasi cosa sognavo, la sognavo al tramonto. C'era questo tramonto sempre dietro che proprio mi opprimeva, era un pochino triste, devo dire la verità. E quando mi svegliavo... Dipende, il tramonto non sempre dà tristezza, a me dà un grande senso di curiosità. No, ma anche a me, se io guardo un tramonto è bellissimo, però nel mio caso era proprio, secondo me, adesso ho fatto una mia psicanalisi da solo... Comunque vediamo, intanto mentre tu parli io cerco nel mio interpretatore dei sogni automatico. Dimmi. Mi fai sapere. No, per tu dico subito, ci metto un secondo. Dai, parla, dimmi, il tramonto... E questo tramonto, secondo me, io ho capito che rappresentava, e molto banalmente, è proprio il mio stato d'animo, una mia visione, secondo me, all'epoca un po' niente, tramonto non lo dà, mi dispiace. Vedi, nessuno sogna il tramonto, non è ancora nel database. Quindi, vedi, ho battezzato questa cosa, io penso che rappresentasse proprio un fatto che io... Poi la cosa interessante, sai cos'era? Che quando... A un certo punto questa cosa mi ossessionava, proprio era un fatto che tutte le sere questo tramonto. E allora io quando ho cominciato a dipingerlo, tanto è vero che me ne sono fatto uno proprio di fronte al letto, io tutti i giorni lo guardo proprio sul balcone enorme. Ma tu sei sempre solo quando sogni questo tramonto? No, magari c'era anche qualcun altro con me nel sogno, ma erano presenti... No, dico materialmente, nel luogo in cui fisico in cui da cui parte il sogno. Sì, sempre purtroppo sì. Vedi, forse questo potrebbe essere... Se tu magari cerchi di essere un po' meno solo al tramonto, probabilmente quel tramonto acquisirà un significato meno struggente per te. Ma sai, questo è un consiglio sconsiderato, non è giusto che tu lo segua. Mario. Sono Mario, buongiorno. Sì, cosa sogni? io volevo dirle questo, il mio sogno ricorrente da circa 10 anni sì. È quello del ritrovarmi di fronte a una sorta di capannone, di magazzino, dall'aria un po' inquietante, no? Ecco, magazzino, scusi, ho digitato magazzino. Magazzino pieno significa che le sue risorse sono infinite. Magazzino vuoto che le energie l'hanno abbandonato. Di oggetti vecchi ha bisogno di nuovi stimoli. E dunque, in pratica, dentro questo magazzino, in questo magazzino sono contenuti in una successione cronologica, direi, man mano che io lo percorro, tutti gli oggetti che non vedo più. Oggetti vecchi, vede, ha bisogno di nuovi stimoli. Numero consigliato 76. Il database parla chiaro. Quindi lei vede tutti gli oggetti vecchi della sua vita in questo magazzino, in questa sorta di deposito dei suoi ricordi, e li percorre, li ripercorre. Quindi lei praticamente si è un po' richiuso nel rimuginare e sorvegliare i suoi ricordi, e quindi ha bisogno che questo magazzino abbia cose nuove. Guardi, io sto rubando il mestiere a quegli schifosi maghi da televisione, però è divertente. Che al termine di questo magazzino c'è un certo spazio verde oltre il quale c'è una sorta di palazzina molto particolare nella quale trovo le persone, capisce? Cioè, è una cosa abbastanza inquietante, perché anche persone che all'inizio erano nemiche invece rivivono serenamente, coabitano insieme. È molto particolare, ma la cosa strana è che continua a ripetere, non sempre, perché io non sogno molto, ma quando sogno, questo è il sogno ricorrente. Fra un po' dovrà chiedere un condono edilizio, allargarlo questo magazzino, perché man mano che passa il tempo crescono gli oggetti e i ricordi. Luca, buongiorno. Ciao Nicoletta. Che sogni? Sogno di andare a prendere un treno in una stazione sotterranea. Una stazione che è sempre sotterranea, ma cioè, detta così sembra un po' angoscioso. Invece a me è un sogno che rilassa molto. Lo faccio ogni tanto, ma già da parecchi anni. Ma stazione sotterranea, quindi è una metropolitana? Sì, però ci sono i treni proprio. Penso non ci che sono i treni. Il database non mi dà treno. Si vede che deve essere ancora abbastanza implementato. Non c'è il treno, mi dispiace. No, avevo anche chiamato una volta uno che interpretava i sogni. Sì, vabbè, guardi, se vuole potrei inventarmi una qualsiasi interpretazione, che sogni una via diritta alla quale non si esce mai, e che sogni una sequenza di avvenimenti uno dietro l'altro, che ti dà un senso di invincibilità, e che non vedi l'ora che questo treno entri nella galleria. Potrei andare avanti fino a dopo domani, ma io credo poco a queste scientifiche interpretazioni dei sogni. Gianni. Ciao, sono Gianni, chiamo da Milano. Cosa sogni? Spesso mi capita di sognare di essere legato, cioè di avere una maca, di essere sdraiato, e questa maca... Legato o sdraiato, che sono due categorie diverse del piacere. Sì. Legato o sdraiato? Sdraiato. Sdraiato su questa maca che è legata a due palme. Sì. E di fianco ci sono due persone che non si riesce a capire se sono maschi o femmine. Io su questo... Con delle palme mi fanno aria. Sì. E di tanto in tanto arriva un'onda del mare che... Con delle palme? No. Sventolano delle palme che sono persone alle sue spalle? Sì, mi fanno aria. Lei le vede chiaramente che sono delle palme? Sì, di fianco. Ma se di fianco come fa a vedere? Cioè vede proprio le foglie o sente semplicemente degli arbusti agitarsi alle sue spalle? No, vedo proprio le ramo della... Vede dei rami alle sue spalle che si agitano? La palma, sì, una vicino ai piedi e una vicino alla testa. Mm. Poi ogni tanto un'onda va a sbattere contro uno scoglio che si trova a 7-8 metri dai miei piedi, dove sono lì a dondolare, e l'onda, infrangendosi, forma tante bollicine che mi si infilano nei peli delle gambe e delle braccia, formando tante perline. Sembra la réclame di un bagnoschiuma. E allora queste persone vorrebbero toccarmi e dicono no, non toccarmi perché sennò le perline... Sì, perché con quei randelli in mano è chiaro che possono creare qualche problema. Va bene Gianni, la ringrazio. Siamo arrivati miracolosamente e velocemente alla fine della prima parte. Vedete come è volato, come se fosse un sogno. Vi prego, fate sogni lievemente più corposi e sinceramente svelate ogni particolare non svelabile dei vostri sogni. Melog 2.0. Il significato dell'acqua nei sogni. Acqua benedetta, tranquillità. Acqua calda, malattia in vista. Bere dell'acqua, nascita in famiglia. Acqua fredda, odio dichiarato. Acqua distillata, purezza. Acqua che bolle, puoi fare grandi acquisti. Acqua in bottiglia, desideri di forti emozioni. Acqua che si rovescia, sei osservato. Acqua di mare, grandi viaggi si prospettano. Acqua sporca, precauzione. Bagnarsi con dell'acqua, cambiamenti. Versare dell'acqua, incendio. Acqua di colonia, il tuo obiettivo è avere successo. Acqua del rubinetto, essere tormentati. Acqua piovana, riceverai un premio gradito. Acqua di sorgente, spensieratezza. Cadere in acqua bollente, sei abbandonato dalla fortuna. 800 24, stiamo parlando dei sogni e stiamo vedendo 800 24 00 24, va ripetuto due volte il numero a cui chiamare per raccontare i propri sogni. Tutti mi stanno raccontando sogni, mi rendo conto che in realtà quanto sarebbe facile fare il mestiere del turlupinatore della buona fede altrui, semplicemente porsi come interpretatore di sogni. Avete visto, l'acqua può dire 100.000 cose diverse, nulla. Mi chiama Selene, dice che sogna ricorrentemente di volare sempre più veloce, poi si innalza nel blu, sta scappando, gli uomini le sparano dietro e questo è l'unico modo di sopravvivere. Mi chiede Krim: sogno sempre di essere tradita e abbandonata, è grave dottore, mi può aiutare lei? Ma potrebbe cominciare a tradire e abbandonare, poi vedere se riesce a controbilanciare questo sogno. Vedete, ci sono delle risposte immediate quando si parla di ciò che non è mai dimostrabile. Pierluigi: il mio sogno è quello di precipitare con l'aereo, di rimanere su un pezzo l'aereo per giorni e giorni in mare, guarda troppo loro. Daniela Blu: spesso sogno un carro dove sopra sta tanta gente, non ci sono auto, un carro cammina da solo senza conducente, io sono sulla strada accanto al carro, tento di fermarlo, non si ferma, allora cammino cercando di riconoscere chi è seduto sui sedili di legno, questo carro va verso l'oltretomba, ci sono tante persone, non vedo che fretta ha di montarci sopra anche lei. Beppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca. Beppe Neri è il nostro neuropsichiatra incorporato, vicepresidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Beppe, io sto rubando il mestiere a qualcuno questa mattina, ma è divertente, facile. Voi psichiatri avete a che fare con i sogni degli altri? Beh, io ti devo dire con estrema franchezza che per un certo tempo ho pensato che stessi tentando di rubare il mestiere a Otelma o al mago di Arcella, il che mi ha un pochino sconvolto. No, il discorso sul sonno e sul sogno, uscendo da questo campo, e che bisogna anche capire alcune cose elementari, parlo più dal punto di vista neurologico. Noi passiamo in media 23 anni della nostra vita a dormire e 4 a sognare, e quindi bisognerebbe prima di tutto capire che è una parte fondamentale e attiva della nostra vita. Non siamo più come quando si pensava che a un certo punto si sconnettesse un certo circuito e noi andavamo in pausa o in stand-by, assolutamente. E quello che è interessante, perché poco fa tu citavi tutte le tue vicende dolorose con il dentista, che poi non so se sia quello del maratoneta in cui Laurence Olivier torturava il dentista. Ma io comincio a pensarlo veramente, ieri mi ha fatto delle cose questo signore che non posso descrivere alla radio. Il meccanismo del sogno è scatenato dal fatto che noi, quando sogniamo, attiviamo una parte molto antica del nostro cervello, che si chiama sistema limbico, che guarda caso è quello coinvolto non soltanto col piacere, col sesso, con la fame, ma anche con l'elaborazione dei segnali dolorosi. Ecco perché ho sognato stanotte io. Allora, può essere. Allora, una delle cose interessanti però è che il sogno, che è una parte vitale della nostra giornata, perché se noi veniamo svegliati nella fase REM, in cui ci sono i movimenti oculari rapidi e stiamo sognando, abbiamo dei danni tali che per esempio i generali argentini ai loro antagonisti che non volevano eliminare facendoli scomparire sul Mar della Plata, gli facevano la deprivazione selettiva di sonno, cioè li svegliavano in una situazione in cui stavano sognando, in modo tale che non avessero segni fisici ma fossero totalmente destrutturati. Beh, questo meccanismo è legato al fatto che noi elaboriamo e selezioniamo quello che impariamo durante la giornata proprio durante il sogno, e c'è un grossissimo lavoro di selezione dei materiali, di archiviazione e di suddivisione per categorie. Nell'ambito di questa grande attività poi abbiamo una, che noi chiamiamo una funzione autopoietica, cioè ci mettiamo del nostro e ricostruiamo, rielaboriamo, siamo dei grandi registi. Senti Beppe, attivando... io sono un fanatico di Oliver Sacks, ma mi spieghi, questa libreria, questo grande archivio di 4 anni della nostra vita, sarebbe in teoria ripercorribile e consultabile in qualche maniera? Ci sono dei meccanismi sperimentali e patologici, ma andiamo per ordine. Uno, Ci sono situazioni in cui, per esempio, per curare certe forme di epilessia, una volta facevamo, i colleghi neurochirurghi facevano degli interventi distruttivi. Prendevano via una parte del lobo temporale dove è immersa questa struttura. La lobotomia, qualcosa del genere? Una parte, ma era una parte selettiva, una zona che si chiama ippocampo amigdala. Benissimo, il paziente aveva un grosso beneficio dal punto di vista dei suoi disturbi epilettici, però si dà il caso che avesse perso la capacità non di conservare, come aveva imparato, non so, l'italiano e il francese quando era bambino o a far di conto, ma a incamerare, registrare e mantenere ciò che apprendeva giorno per giorno. Quindi questo dimostra che ci sono dei meccanismi di, se vuoi, registrazione e archiviazione online di quello che da un certo tempo in poi tu impari, apprendi e memorizzi, che vengono intaccati da una distruzione. Ci sono invece delle situazioni in cui alcuni tumori o alcune lesioni di certe parti del cervello fanno venire fuori delle abilità linguistiche, per esempio dei dialetti o delle lingue, che lui, il paziente, non conosceva, ma che casomai in famiglia, da parte della mamma o del padre, esistevano e che non ha mai parlato, ma che erano stati trasmessi e codificati e che erano patrimonio di conoscenze che erano, tra virgolette, represse finché lo scompaginamento anatomico derivante dalla lesione ha fatto emergere queste cose. Quindi non so se un domani, come dici tu, arriveremo a sfogliare volontariamente e sistematicamente questo album della memoria che abbiamo nel nostro cervello profondo, ma dal punto di vista dei principi e della metodologia dello studio non è del tutto inverosimile. Io avevo citato Oliver Sacks, questo neurologo e anche affascinante scrittore inglese, che scrisse nell'Uomo che scambiò sua moglie per un cappello la storia della sua paziente, una signora che si presentò da lui, che riscoltava tutta la musica della sua vita, non se lo ricordava per qualsiasi un particolare meccanismo. Lei aveva come riacceso il registratore di tutta la musica che aveva ascoltato nella sua vita e si riproponeva continuamente. A me affascinerebbe che questi 4 anni, di cui avrò probabilmente già consumato la metà a mia disposizione, potessi in qualche maniera, come un videoregistratore, riprenderli e riportarli in superficie. Pietro, buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare, riallacciandomi anche a quello che diceva il neuropsichiatra, del controllo dei sogni, nel senso che esiste un testo che le consiglio di leggere, che si chiama Creative Dreaming, di una dottoressa americana, in questo momento sono in macchina e non ho il dietro, se no le direi, che ti insegna a prendere un minimo grado di coscienza all'interno del sogno e avere un certo grado di libertà di movimento, perché il punto qual è? Nei sogni noi siamo calati in una situazione e non abbiamo la libertà di agire, mentre invece con delle tecniche che sono sostanzialmente tecniche di autoipnosi, il punto è rendersi conto che in quel momento stai sognando, perché tu quando sogni non ti rendi conto di star sognando, non c'è un'alterità rispetto a te stesso. Allora io sono riuscito 2 volte nella mia vita, sono i 2 sogni che mi ricordo benissimo, una volta mi sono svegliato nel sogno, tra virgolette, che ero su una scogliera vicino a casa mia al mare e ho deciso di volare come fa Neo alla fine di Matrix, e mi è riuscito e provavo veramente le sensazioni del volo. La tecnica si chiama onironautica, cioè come muoversi e navigare nei sogni. Esatto, ed è bellissimo, cioè funziona. A me è successo solo 2 volte, la seconda volta invece mi sono svegliato in classe al liceo e ho malamente approfittato dal punto di vista erotico per togliermi delle soddisfazioni che nella vita reale all'epoca non mi riuscì a togliere. Però voglio dire, esiste questa tecnica, c'è questo testo, si chiama Creative Dreaming ed è meraviglioso, cioè addirittura con tecniche avanzate si riesce a sviluppare un problem solving all'interno del sogno. Vabbè, chi ha tempo a disposizione e chiama muoversi con metodo attraverso i propri sogni può documentarsi sull'onironautica, la tecnica di navigare attraverso i propri sogni. Marcella. Buongiorno. Lei come naviga attraverso i suoi sogni? Ma a volte si riescono anche a gestire e a incanalare in maniera positiva, anche quando hanno un sogno ricorrente magari negativo. Mi è riuscito più di una volta a canalarlo in maniera positiva, soprattutto verso mattino, quando c'è una maggiore coscienza. Quindi lei domina il suo sogno. Cosa sogna ricorrentemente? Allora, il sogno divertente è quello che mi improvviso parrucchiera. Mm. In un paese che potrei collocare nella Bassa Padana, in anni 50, mi improvviso convinco le persone a farsi tagliare i capelli da me, che non ho alcuna cognizione. Ma sono maschi o femmine i suoi clienti? Entrambi. Faccio la barba e taglio i capelli. Beh, è una meraviglia, perché lei sa che la parrucchiera negli agglomerati paesani della provincia italiana è una delle suggestioni erotiche più forti, la parrucchiera è a disposizione di tutti, la parrucchiera di sotto è sola, la parrucchiera è autonoma, la parrucchiera ha un suo lavoro, la parrucchiera soprattutto nell'Emilia Romagna è una figura simbolica, è colei che è la moderatrice di tutti i flussi emotivi ed erotici dei maschi accoppiati del suo posto, quindi lei in realtà è una grande dispensatrice di piacere e di sogni. È rimasta senza parole. Il mago Telma ha parlato. La cosa che secondo me è molto divertente sono i risultati. Lo immagino. Di questi tagli di capelli. E invece un altro sogno. Perché è quali sono i risultati? Non ve li dica quali sono i risultati. Sono disastrosi, anche perché poi li convinco le persone che si sono sottoposte al taglio che invece il risultato è bellissimo, che si è migliorata la loro immagine, che è un taglio di tendenza, ma io non ho alcuna cognizione assolutamente. Anzi, invece in altri casi vengono dei tagli bellissimi, non so come mai. E quindi? E quindi sono soddisfatta e sorpresa di me stessa. E finisce così? Sì, sì, sì. Va bene, sono contento. Raffaele? Salve, ciao. Cosa anch'io più o meno parrucchiere. Riesco a volare. No, che parrucchiere. Poi senza capelli sarebbe difficile. Spesso riesco a volare con una corsetta e poi plano sulle città, sui paesi, sulle vie soprattutto. Quasi sempre l'ambientazione è notturna e spesso quando sta per finire il sogno, continuo a fare un sacco di tentativi, sempre con delle corsette, tipo una rincorsa, e poi mi lancio in aria e per un po' riesco a planare, poi di nuovo cado, insomma, finisce sempre. Noi, non so se ti ricordi, dedicammo l'anno passato un'intera trasmissione proprio al sogno di volare. Abbiamo fatto una categoria e c'era ognuno descriveva la sua tecnica, chi col saltello, chi con la rincorsa, chi buttandosi da una finestra, chi semplicemente muovendo le ali, chi agitando i piedi. Il sogno di volare è uno dei sogni più ricorrenti. Il volo cosciente, guidato come se noi fossimo un aeroplano nella nostra allucinata forma fisica attraverso il sogno, è una delle cose più divertenti, più interessanti. Si vede il mondo dall'alto e si vede come si vedono le città oggi nelle mappe di Google. Ma io mi ricordo che faccio questo sogno quando ancora non esisteva Google. Melog 2.0. Ti piacerebbe ricevere ogni volta che ne hai bisogno saggi e utili consigli su come risolvere le questioni che ti stanno più a cuore? I sogni sono nostri amici, nostri alleati. Dai sogni possiamo ottenere suggerimenti per la soluzione di molti problemi. Vuoi qualche esempio? In una notte del 1865, Friedrich Kekule, chimico tedesco, vide in sogno la struttura del benzene. Otto Loewi, fisiologo americano, ebbe un sogno che gli permise di scoprire come si trasmettevano gli impulsi nervosi nel corpo umano e vinse il Nobel. Lo scrittore Stevenson trovò in sogno lo spunto per il racconto Lo strano caso del dottor Jekyll, diventato famoso in tutto il mondo. Esempi illuminanti di quanto il momento dell'uscita dal mondo concreto e l'entrata nel mondo del sogno in realtà ci apre a delle prospettive che sono inimmaginabili. Su questo c'è un'infinità di letteratura, c'è un'infinità di parascienza o pseudoscienza, ma Giuseppe Neri, neuropsichiatra e nostro grande amico, probabilmente ci può dare un punto di distinzione rispetto a quello che si immagina, si dice e appartiene al mondo dell'ipotesi e quello che è realmente scientificamente provato su queste aperture nel momento del sogno. Ma ci sono una serie di indagini molto accurate che arrivano a fornire dei supporti di informazioni attendibili circa il fatto che è come se le nostre capacità immaginifiche si dilatassero ed è come se la nostra capacità di fare una sintesi di tutti gli elementi di cui disponiamo e formulare un'ipotesi che ci consente di lanciarci al di là dei semplici elementi che abbiamo a disposizione oggi, nel sonno, in cui una serie di attività di allerta, vigilanza, attenzione per il mondo circostante, meccanismi di difesa che ci portiamo dietro da milioni di anni, sono meno presenti perché noi stiamo non soltanto ricaricando le batterie, ma mettendo anche un pochino ordine nei nostri sistemi di pensiero. Quindi un abbassamento delle nostre difese nei confronti della realtà ci permetterebbe di sognare anche da svegli? Dunque, prima di tutto ci possono essere delle intrusioni di sonno e di sogno nella veglia, e questo è classico nelle situazioni di debito di sonno. I colleghi che si occupano di neurofisiologia del sonno, per esempio, misurano l'efficienza del sonno, che è molto semplicemente quanto tempo viene utilizzato per dormire rispetto al tempo che si trascorre stando a letto. E gli insonni, o quelli che hanno una cattiva qualità del sonno, sono persone che trascorrono abbastanza tempo nel letto, ma dormono poco e dormono male. Queste condizioni possono portare nella veglia, cioè nelle ore diurne, a una meccanismo in cui il cervello ti impone di recuperare, perché sei in debito, ti porta all'incasso una cambiale che non è più derogabile, e quindi ci sono delle intrusioni di sonno e di sogno nella veglia, senza parlare poi di malattie complesse. Il discorso però è che è possibile che alcune intuizioni di particolare livello possano realizzarsi nel sogno, proprio perché il sistema di canalizzazione e di selezione delle risorse e dell'energia di cui disponi, diciamo, è meglio allineato, è come se tu avessi deframmentato e messo un pochino a posto meglio il tuo hard disk. Quindi non è soltanto definire come un'attività ludica il sogno, qualcosa che non appartiene comunque, non appartenendo alla sfera del razionale, quindi a un rango di dignità inferiore, è anche un momento di estrema e meravigliosa focalizzazione di quelle che sono le proprie priorità nei momenti di veglia, professionali, affettive, relazionali, costruttive, creative. Michela. Salve, buongiorno. Ho chiamato perché non ho mai avuto occasione di chiedere a qualcuno o di leggere qualcosa a proposito, ma io... Vale, qui ho uno psichiatra e un ciarlatano a disposizione. Esatto, quindi sono felice infatti di poter fare questa domanda. Io sono anni, ma tantissimi, e lo ricordo bene, che faccio un sogno più o meno sempre lo stesso. L'oro è la cosa che sogno sempre, e nei sogni diversi sempre lo cerco, lo rubo, lo compro, lo trovo, scavo per trovarlo. Sono tantissimi anni, circa 30, perché io ho 44 anni, ero molto piccola quando... Ma trova qualche pepita ogni tanto? Come? Qualche pepita d'oro, no? Sono sempre gioielli, non è mai una... Ah, trova pepita. Gioielli nascosti? Sono sempre gioielli, è sempre oro lavorato, per cui nei negozi lo rubo o lo compro o lo trovo sottoterra. Ma ha qualcuno che ogni tanto le regala un gioiellino? No. No, non ho nessuno che me lo regala, e nemmeno particolarmente mi interessa, perché non amo i gioielli, come non amo il trucco, non sono così femminile. Ma e perché si nega la femminilità, scusi? Prego? Perché se lo nega? Ah, ci saranno motivi altri, non lo so, però... Se non l'ha capito adesso. Come? Però vede, poi lei va la notte scavando a cercare gioielli, scusi, questo è il ciarlatano che parla, poi le farò sentire lo psichiatra se vorrà dire qualcosa. Enza. Sì, buongiorno. Io avevo una domanda da fare al professore. Cosa ne pensa dei sogni premonitori? Lei ne ha? Sì. E ne faccio un esempio così capiamo meglio il quadro. Ma ci sono tanti esempi. Per esempio, sogno un qualche cosa di una persona, il giorno dopo, due giorni dopo, so che è successo veramente. Ma mi faccia un esempio concreto che è accaduto. L'altro giorno ho sognato di una signora che doveva cambiare casa. Ho incontrato la signora. E io ho detto, ma è successo qualcosa? Sì, abbiamo discusso con il proprietario, io cambierò casa. Beh, questa è una sciocchezza rispetto ad altre. Ho sognato mio figlio tanti anni fa che alle 6 del mattino non era ancora tornato a casa. E io mi sveglio e dico, che sveglio mio marito, e dico, guarda, io penso che è stato fermato dalla polizia e carabinieri. Mio figlio mette la chiave nella toppa. Dico, ma che cosa è successo? Dice, mi hanno fermato i carabinieri qui su nella piazzetta. Ma abitualmente esce con armi improprie suo figlio, no, con strane bustine, no? E allora, beh, succede, intanto i carabinieri notte pattugliano. Adesso chiederemo, Tim non so, mi diceva che sognava di essere un cecchino caduto sopra un albero, ma per dare altri elementi a Beppe Neri volevamo sentire ancora un'altra parte delle possibili regole per sognare meglio. Regole per predisporsi nel modo migliore per un viaggio onirico. La prima cosa da fare è scegliere l'argomento che vuoi far sviluppare dai sogni. Scegli il problema più scottante, quello che ti sta più a cuore. In seguito, scegli la notte adatta per l'incubazione. L'ideale sarebbe una notte in cui hai a disposizione parecchie ore di sonno. Prima di dormire, cerca una frase breve, semplice, chiara, in grado di sintetizzare le tue esigenze. Scrivi questa frase all'inizio dei fogli e metti tutto vicino al letto. Tieni sul comodino tutto l'occorrente per scrivere. Fogli di carta, una matita o una biro, oppure un registratore, una torcia o una penna luminosa per non svegliare chi eventualmente dorme con te. È una buona idea anche tenere nella stanza da bagno una penna e degli altri fogli, così che se senti il bisogno di alzarti di notte, tu possa scrivere anche lì. È un po' complicato l'armamentario che occorrebbe mettersi sul comodino, ma come avviene nei sogni concreti, nelle fatali avventure, negli incontri sconvolgenti? Apparecchiare troppo, preparare troppo, toglie un po' poi la possibilità che avvenga quel miracolo che uno cerca. Anna sogna sempre denti che si muovono, cadono, si ingoiano, mancano. Sognavo anche io e poi questo sogno si è avverato. Valentina sogna spesso avventure galanti, si svolgono talora con miei ex, talora con amici, conoscenti, personaggi pubblici o conosciuti. A volte sono verosimili, molto più di frequente sono del tutto assurde. Sogno di Loredana, essere vicina agli esami maturità. Ecco, io sogno qualche volta che non mi sono laureato, un incubo, che mi devo ancora laureare. Non essere per niente preparata, libri interi da studiare. Paola, mi capita, dove stai finita? In modi diversi di perdere il mio gatto e dopo improbabili vicende di ritrovarlo. Sognare animali, a me una volta capitò che mi morse il mio cane e sognare la notte vedevo il mondo nella soggettiva di un cane, quindi a mezzo metro da terra. Appena ti svegli, cerca di restare a letto, immobile, con gli occhi chiusi, per recuperare tutte le immagini oniriche che ricordi e affrettati a scriverle prima di alzarti perché possono svanire in fretta. Se proprio non ti viene in mente niente, puoi provare a girarti lentamente in varie posizioni per vedere se riesci a recuperare almeno dei frammenti onirici. Dunque, non ci resta che augurarvi buonanotte. Tim, in una battuta, allora, l'abbiamo recuperata. Cosa sogna lei? Sì, buongiorno. Il mio sogno ricorrente è essere uno sniper, un cecchino che però non spara, innamorato del mio fucile e che divento tutt'uno col mio fucile e ho questo potere. Quindi ha un fucile che non usa mai. Non sa mai. Decidere della vita degli altri. Non saprà mai quanto è nefasto il suo fucile, non saprà mai se riesce a colpire al bersaglio. Il suo fucile se lo guarda, se lo tiene in mano, se lo rimira, se lo lucida, se lo accarezza, ma il suo fucile non ammazza nessuno. Bene, Beppe Neri, chiudiamo. Cosa hai da dire rispetto a queste piccole che tu conoscerai bene, visto che raccontare i sogni è una delle prime maniere di entrare in contatto magari con un terapeuta? Quanto sia facile però, da chi volesse, avesse cattiva fede e avesse callidità impropria, maneggiare le persone semplicemente facendosi raccontare i loro sogni. Ma quella è una cosa di una pericolosità estrema e che è purtroppo diffusissima in questo nostro paese, in cui ci sono ciarlatani che carpiscono la buona fede delle persone e carpiscono anche parte dei patrimoni. No, l'unica riflessione che mi viene in mente è che il sonno e il sogno sanno di noi e della nostra mente cose che noi non sappiamo, perché, e questo è uno strumento che forse ci può far riflettere, è come se il sogno ci consentisse di entrare in casa nel nostro cervello, non dalla porta principale, ma da quella che gli americani chiamano la back door, la porta di dietro, quella del giardino, che usiamo poco ma ci fa arrivare lo stesso al centro della nostra casa e dove viviamo. Ecco, con questo percorso diverso forse possiamo vedere le cose ed avere accesso ad ambiti che in situazioni di consapevolezza e di veglia noi o non vogliamo o non sappiamo guardare. Quindi noi possiamo essere i migliori interpreti dei nostri sogni se ammettiamo di farne. Ringrazio Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.